4H. Ascolta e completa. Ho bisogno di una sedia. Per cortesia, me la dia. Ho bisogno di una penna. Per cortesia, me la dia. Ho bisogno di una busta di plastica. Per cortesia, me la dia. Lei non stia in piedi e loro non stiano in piedi. Lei non stia a casa oggi. E loro non stiano a casa oggi. Lei non stia con le mani in mano. E loro non stiano con le mani in mano.